Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Oltre al sistema degli incentivi automatici per l'efficienza energetica, dagli sgravi fiscali ai certificati bianchi, esistono anche numerosi programmi nazionali ed europei dedicati alle piccole e medie imprese. Programmi che promettono notevoli benefici anche se l'accesso a queste risorse economiche è un po' più complesso. Ebbene, stasera abbiamo deciso di concentrarci su quanto offre l'Europa, facendoci aiutare da Dario Di Santo, che è direttore di FIRE, la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia, che è stato con noi più volte. Buonasera quindi Di Santo, bentornato a Mr. Kilowatt. Buonasera e ben ritrovati gli ascoltatori. Allora, iniziamo, insomma, quali sono questi programmi e soprattutto, ecco, diciamo, quali sono le categorie di interventi che sono possibili? Sì, diciamo che questi programmi vengono incontro a tre fondamentali esigenze. Sono un'azienda che vuole investire nella ricerca, quindi ha dei prodotti su cui vuole investigare, bene, ci sono programmi che finanziano direttamente la ricerca, fra cui il principale è il settimo programma quadro. D'accordo. B, ci sono programmi destinati all'innovazione, quindi ad esempio qualcuno ha sviluppato un brevetto e io sono interessato a portarlo a un livello di industrializzazione. Quindi intervengono proprio nella fase del trasferimento tecnologico. Esattamente, o anche fornendo aiuto al capitale di rischio, tipo venture capitalist. In questo caso il programma principale è il CIP, quindi competitività e innovazione. E poi c'è la terza branca. Io sono oltre queste esigenze, voglio far crescere la mia impresa, oppure voglio creare delle nuove start-up nel campo energetico. In questo caso una delle risorse disponibili è quella dei fondi strutturali, quindi disponibili attraverso le regioni. In Italia il più importante è dedicato all'energia, ma che riguarda solo le regioni del sud, è il POIN, sì. Poi ci sono altri fondi invece messi a disposizione delle altre regioni. Questa stessa richiesta di sviluppo di impresa può essere anche soddisfatta valendosi ad esempio della Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo o della Banca degli Investimenti, soprattutto se voglio andare a investire nelle aree più disagiate, insomma, europee. D'accordo, d'accordo. Ecco, sotto che forma vengono erogati questi aiuti? Immagino siano diverse le forme, insomma. Ce n'è per tutti i gusti. Alcune prevedono che i fondi europei vengano messi a disposizione di banche che ne facciano richiesta. A questo punto queste banche le mettono a disposizione come prestiti, in genere a tasso agevolato, quindi in questi casi uno si rivolge direttamente alla propria banca se questa ha aderito, quindi mi rivolgo agli sportelli e vedo se c'è un programma di quelli che mi interessa. La seconda possibilità è invece una possibilità legata al finanziamento ad esempio di persone o di idee progettuali, questo riguarda ad esempio il mondo della ricerca, soprattutto dei ricercatori. Certo. Qui posso arrivare a coprire anche il 100% delle spese previste. Poi esistono i cosiddetti programmi che prevedono una call, quindi un bando, e la presentazione di un progetto. Questi sono quasi tutti transfrontalieri, quindi sono complessi e prevedono di mettere insieme un partenariato importante. Certo, con aziende o altri enti che comunque si trovano in un altro paese, necessariamente. Esattamente, devono necessariamente avere un valore aggiunto europeo. E in questo caso io presento il progetto, che normalmente se viene finanziato parte dopo circa un anno, e fra questi rientra ad esempio il programma Energia Intelligente per l'Europa, che è più focalizzato sulla diffusione, quindi ho già ottenuto i risultati, voglio disseminare per andare a aumentare l'utilizzo della tecnologia ad esempio, ma rientrano anche programmi come il Life Plus, che è gestito da autorità nazionali, in Italia al Ministero dell'Ambiente, per cui io presento in questo caso un progetto che sarà finanziato in questo caso al 50%, quello prima era al 75%, e che deve in questo caso avere un'attinenza ambientale, quindi gli interventi energetici vanno effettivamente bene. Rientrano decisamente in questa casistica. Ecco, si tratta di programmi che saranno disponibili fino a quando? La maggior parte di questi programmi sono finanziati nel periodo 2007-2013, quindi insomma, c'è sono macro tempo. Azioni comunitarie, per cui c'è ovviamente molto tempo. Quelli che prevedono una call in genere ne prevedono una all'anno. Adesso sono aperte quella EIE, che però scadrà fra pochi giorni, e quella Life Plus, che scadrà a settembre, quindi quella potrebbe essere una opzione interessante. Da esplorare. Tanto più che non c'è il partenariato transfrontaliero, ma è solo nazionale. Ecco, d'accordo. A proposito, come come dire, di burocrazia europea, mi pare che da questo punto di vista si possa stare anche più tranquilli, nel senso che lì i tempi sono certi. Sì, diciamo che da un lato, il lato negativo è che quasi sempre sono molto fiscali nell'andare a analizzare i documenti, quasi tutti questi programmi sono a rendicontazione. Dall'altra parte però, ciò detto, i soldi arrivano con le tempistiche previste e nelle quantità previste, purché uno appunto abbia rendicontato bene. Dove si possono trovare informazioni utili su questi programmi e poi a chi eventualmente ci si deve rivolgere per avere aiuto nel momento in cui si decide di partecipare, proprio per le ragioni che diceva lei di Santo, insomma, che bisogna essere molto attenti a rispettare tutti gli aspetti formali. Sì, la maggior parte di questi programmi sono descritti molto bene, in modo molto semplice, sul sito del Cordis. Altre informazioni si possono trovare sul Life Plus, scritto ovviamente Life Plus, col più, per quanto riguarda la possibilità di prestiti o anche equity, possiamo andare sulla Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo oppure sulla Banca degli Investimenti. Per quanto riguarda gli aiuti, conviene rivolgersi a qualcuna delle tante società o anche consulenti o enti che supportano le imprese nel presentare la domanda. In genere chiedono un contributo per la predisposizione della domanda e poi, se la cosa va a buon fine, un'integrazione. Va bene, esatto. grazie Di Santo. Grazie a voi. Bene, questo è tutto. Un annuncio prima di lasciarci: settimana prossima, mercoledì e giovedì, a Barletta si terrà il FEI, il Forum Internazionale dell'Energia, con molti approfondimenti sull'infrastruttura energetica italiana. Questo è tutto, noi ci risentiamo lunedì, parleremo di fotovoltaico dal punto di vista normativo e autorizzativo. Buon fine settimana a tutti.